fratello di fede, compagno sincero, amico di tante avventure in un mondo straniero, amico che parli da uomo col cuore bambino, che sei al mio fianco dovunque mi porta il destino. Ricordo le tante battaglie per mare e per terra, con te che vuoi solo la pace e combatti la guerra. Io so che il tuo cuore è una casa di porte aperte, amico tu sei la certezza nelle ore più incerte. C'è bisogno di chi sa indicare l'uscita, con la tua parola di forza, di fede e di volo, mi dai la certezza che io non rimango mai solo. Amico, fratello di fede, di notte e di giorno, sorriso ed abbraccio di festa se faccio ritorno, che sai dire le verità con le frasi più aperte. Amico, tu sei la certezza nelle ore più incerte. Tutto questo che ti dico, ma è bellissimo sapere che tu sei un grande amico. Non dovrei nemmeno dire tutto questo che ti dico, ma è bellissimo sapere che io ho un grande amico. Non dovrei nemmeno dire tutto questo che ti dico, ma è bellissimo sapere che tu sei un grande. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Tu che sei tra le tante esperienze, quella che ho ancora in mente, quella che più mi preme. Tu che sei degli amori che ho avuto, il più complicato e il più semplice insieme. Tu che sei il mio sbaglio più giusto e la più strana storia che han scritto di me. E per questo e per altro che anche così tornerei ancora con te. Tu che sei la bugia più sincera, la battuta più seria che ho detto mai. Tu che sei il brivido più antico e l'amore più amico che ho avuto mai. Dei ricordi che mi fanno compagnia, tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te. Ho scordato che volevo scordare, ho pensato che era sciocco pensare, ho capito che non posso capire ma solo accettare che non ti avrò più. Tu che sei il mio grande rimedio e la sola perfidia che accetterò. Tu che sei la mia pace, l'affanno, il più stupido inganno che mai soffrirò. Dei ricordi che mi fan compagnia, tu sei la nostalgia che sempre vorrei. E così, anche solo così, sono ancora con te. Quando ti amai la prima volta io, tutto era poesia. La gioventù correva i nostri corpi, la nostra fantasia. Ed io ti amai come si ama quell'età, abbandonato ai sogni. Poi sei andata ed ho pianto per te, come solo un ragazzo lo fa. Per la seconda volta io ti amai, ed ero un uomo fatto. Tra le mie braccia già una donna tu, con già tutti i difetti. Ed io ti amai come soltanto un uomo sa, con tutta l'esperienza. Poi sei andata ed ho pianto per te, come un uomo non deve. Quando mi stancai di star dentro una stanza, ti regalai un resto di speranza. E c'eri tu per la strada, il passato tornò a parlare di oggi. E ancora una volta ti amai, pieno ancora di te, bella e nuda e selvaggia. Stavo per chiamarti, ma ho rivisto me stesso, ho fermato i miei passi. Sentivo che un uomo quando ha nostalgia, se vuol piangere, può. domattina io e te ci faremo portare un caffè. Ti verrai a cucciare da me, mi aprirai le tue braccia. Sulla tua faccia il disordine di questa stanza sembra quasi di stare in vacanza. Non alziamoci più, domattina io e te e la fiamma che già si riaccende. Il caffè sarà freddo, ma niente, dammi ancora un minuto. Che ora è? Che ti importa del tempo là fuori? Sento già che di me ti innamori. Non ti lascio andar via. Anzi, chissà che al lavoro neanch'io vado più. Se stai con me, mille buone ragioni io le ho. Domattina io e te non prendiamo nemmeno un impegno. Da quant'è che pensiamo ad un sogno che ci porti lontano? Quando più tardi ci alzeremo ad aprire le tende, sarà buio, la notte si accende, ordiniamo la cena. Alzeremo ad aprire le tende, sarà buio, la notte si accende, ordiniamo la cena, ordiniamo la cena. Significato. io vado e non mi stanco. La croce lascio giù, dritto sulla pista che determini tu. In tutti quei momenti che affronto qualche guaio, son forte la mia fede, mi fa un uomo di acciaio. Tu sei la mia difesa, tu sei la mano tesa, la mia fede porta fino a te. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. He visto un bambino contento. Ho visto il tempo giocare a chi cede per primo insieme al bambino. Io sto con i piedi nel fiume, sto bene, non vengo più via. Il sole sta ancora brillando, mi fa compagnia. Ho visto una donna costruire una persona e il tempo si ferma a guardare quel ventre che grida. La vita è amica dell'arte, è l'unica parte che so, è il sole che a me l'ha insegnata e quella farò. Per questo io canto e sento che c'è nell'aria una forza strana con me. Per questo io canto la voce che ho, non è solamente mia. Visto capelli già bianchi in fronte a un artista, il tempo continua a passare ma lui non è vecchio. Lo specchio di quello che accade, di quello che è stato e sarà, è il sole che batte una strada dovunque si va. Ho visto degli uomini in lotta, sentivo un grido, son stato nel fondo di ogni passione nascosta. La cosa che costa e si paga più cara, non vince una gara col sole, il sole la strada, il sole. aria una forza strana con me. Per questo io canto la voce che ho. Non è solamente mia. Per questo io canto e sento che c'è nell'aria una forza strana con me. Per questo io canto la voce che ho. Non è solamente mia. Per questo io canto e sento che c'è nell'aria una forza strana. Tardi che mai, senti suona non lento, io posso ballare con te, come ai vecchi tempi, ballando così. Sei piccola tra le mie braccia, che pelle che hai, non cambierai mai. Mi investi col tuo seno, non resisto, mi scateno. Il tuo viso confuso col mio mi fa dire di te. Cose che fanno arrossire chi sta accanto a noi. Abbracciami forte, che ti importa? Non è questo che vuoi. Che bello se i lenti così non finiscono. Sero mai. Non è questo che vuoi. Che bello se i lenti così non finissero mai. Che bello se i lenti così non finissero mai. Ogni tanto tornare bambino e ogni tanto gridare che ho molto bisogno di te. Farmi prendere in braccio e sentire una vecchia canzone con un principe senza paura che somiglia a me. E vorrei la tua voce che dice coraggio pulcino. Avrai tutte le cose, i tesori, gli amori che vuoi. Quante sono le cose, gli amori che ci hanno divisi. E alla fine la vita ritorna più forte di noi. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura. Quante volte mi sono perduto in fondo alla notte, con problemi d'angoscia giganti che non vinco mai. Vieni ancora a passarmi la mano in mezzo ai capelli, vieni a dirmi coraggio pulcino, se vuoi ce la fai. Quando ero bambino ero un'isola nelle tue braccia, e sapevo dormire tranquillo laddove eri tu. Io ritorno a sentire da te le parole di quando la mia vita era tutta un bel sogno e molto di più. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura. Vorrei una volta ogni tanto tornare bambino, ma per te io bambino son sempre, questo lo so. E ogni volta che torno da te non mi serve parlare, tu lo sai di che cosa ho bisogno e ti ascolterò. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura, riportami a casa. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Prova a scordare se riesci i giorni e le notti vissute da noi. Prova a scordare la mia parte nel farti più donna che quello che vuoi. Prova a scordare le lotte passate, le liti, gli abbracci, parole minacce, i baci bagnati di pianto e sudore. Di ciò che eravamo noi due. Prova a scordare i progetti e gli atti d'amore, tante cose in comune. prova a scordare le mie mani impazzite, gli sbagli infiniti che il tempo ci impone. Prova a scordare che cerchi noi due ogni volta che conti un amore di più. Prova a scordare chi sei, non potrai neanche tu. Prova a scordare che cerchi noi due ogni volta che conti un amore di più. Prova a scordare chi sei, non potrai neanche tu. Quando ci hanno presentati avevamo già capito che tra noi potevamo costruire qualche cosa di speciale prima o poi. L'impressione che sentivo era che ti conoscevo da tanto tempo già. Quella volta che ho incontrato te, quella volta che chi lo sa da quanto tempo, aspettando quell'incontro, ti sognai. Io ricordo il posto e l'ora, le parole e l'atmosfera, come mai. Venne l'alba inaspettata e la strada era bagnata. Ti stringevo a me, quella volta che ho baciato te, quella volta che quando noi ci incontravamo, ogni volta sentivamo tutti e due traboccare in ogni bacio una voglia senza pace che esplodeva in noi. E una notte senza fine, controllare la passione fu impossibile. Quella volta che ti sei data a me, quella volta che due amanti, due fratelli, ogni volta erano più belli i voli tuoi. era tanta la poesia da sentire nostalgia di ogni attimo. E in un attimo gli amanti ritornarono davanti alla realtà. Quella volta che senza alcun perché rinunciavi a me. Tutto terminò con il primo no, quella volta che tutto terminò con il primo no, quella volta che quella volta che quella volta che